La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta. Gli disse: «Su, va nella grande città di Ninive e annunziale il messaggio che io ti dico». Giona si mise in cammino per andare a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, lunga 3 giorni di cammino. Giona, dopo essersi inoltrato in città per il cammino di un giorno, proclamò: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno, vestendosi di sacco dai più grandi ai più piccoli. Quando la notizia arrivò al re di Ninive, egli si levò dal suo trono, si tolse di dosso il manto reale, si vestì di sacco e andò a sedersi sulla cenere. Egli fece bandire in Ninive per decreto del re e dei suoi grandi: «Uomini e bestiame, grande e piccolo, non gusteranno alcunché, non pascoleranno e non berranno acqua. Ci si copra di sacchi e si invochi Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua condotta cattiva e dalla violenza di cui ha macchiato le mani. Chissà che Dio non si ravveda e cambi, sicché receda dall'ardore della sua ira e non periamo». Dio vide le loro azioni, che cioè si erano convertiti dalla loro cattiva condotta. Dio allora si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece.